alto, sì, ma non sono 10 metri d'altezza. Hai capito? La gente si mette paranoia, capito? Più del dovuto, oppure lo fa proprio per senso di... per fare polemiche, come fanno su internet. Ormai è tutto un contrapporsi agli altri, come dire, cercare lo scontro, ma la gente sta impazzendo, vabbè. Ciao Gianfra, di nuovo salutoni, mi ha fatto piacere che sia entrato dopo, almeno io ti ho sentito dopo 1000 anni, sto entrando poco e niente comunque qua, la voglia è poca. Sì, ogni tanto ci si fa sentire. Mi sembra Marco questo che c'è, ma ogni tanto entriamo anche qua, non è che quando ti piace la radio, ovviamente dovunque essa sia ci vai, tutto lì. E poi quasi tutti i droni sono fatti in Cina, credo anche, non so se se DJ altri cinese, se non ricordo male, però non ne sono sicuro. E sicuramente l'altra, come il nome che ho io, la Potensic, che oramai sta diventando la seconda in ordine di utilizzo, è cinese. Ricordati che oramai i cinesi hanno una tecnologia che è pari pari a quella americana, quindi non si può più parlare di cinesate, quasi tutti fanno fabbricare i propri prodotti di lì, e quindi è così. Va bene Marco, buona serata e alle prossime, fate sentire ogni tanto, ci fa una chiacchierata così. Via. Almeno passiamo il tempo. Gianfra, ti devo chiedere scusa un attimo perché mentre parlavo il passaggio era lungo, è andato in time out il baracchino, però qua non ti stacca la portante, ti lampeggia il display per indicare che sei andato in time out, quindi parzialmente ho parlato sopra. E quindi in breve ti volevo dire i droni, praticamente il mio è di quelli cinesi, diciamo, magari senza è un C0 come peso, magari non c'è proprio la marcatura, però siccome sono prodotti prima di una tale data, perché sono in circolazione da un po', credo siano ancora tollerati. Poi avevo fatto tutto, il QR code, l'iscrizione, ma come si chiama? Figurati quanto tempo che non lo uso, quel sito che ti fa vedere le zone rosse, anche temporanee, no? Avevo fatto l'assicurazione a Cover Drone, insomma tutto quello dovevo fare, mi sono letto normativa eccetera, e così, però l'ho usato alla fine due volte sole per provare, partendo proprio da zero e alle prime armi, diciamo uno è meno peggio, cioè ha lo stabilizzatore a due assi, un'immagine che è a quasi 1080p, diciamo è degna, al GPS, quindi anche se te lo perdi ritorna proprio sull'asse, sul punto di partenza, non è male. Ok, va bene Gianfra, allora io stacco, poi già ne parleremo con più calma, è che ogni anno è sempre più restrittivo, io mi ricordo ne parlavi sia al baracchino sia magari da altre parti, e qua ti fanno passare la voglia di provare tutto, cioè le passioni te le stroncano, quindi lasciamo perdere, ti passa la voglia, tanto per usarlo una volta o due all'anno, figurati. Ciao Gianfra, buona serata, buon tutto e alla prossima, ciao. Ok, ciao Marco, buona serata, alle prossime. Aspetta, un'ultima cosa, Gianfra, visto che tu... Allora, questi non hanno la marcatura C0 stampata sopra, però dalle normative avevo capito che se è prodotto prima di una certa data, rientra sempre in quella categoria, puoi fare quel tipo di volo, eccetera, eccetera. Mentre quelli dopo una certa data devono avere per forza stampigliato sulla scatola e anche sul drone proprio la categoria C0. Mi sa dire qualcosa in più? L'hanno abrogata? Ci sono novità? No, quella è la categoria, tra virgolette, minima quindi dei C0 che sono da 250 grammi, se non ricordo male. E praticamente su quelli non è necessaria la patente, ecco, su quelli più pesanti, anche se meno performanti, è necessaria la patente, cioè fare una vera scuola di droni e avere la patente, così poi anche lì ci sono i vari gradi. E quelli tipo quello che ho io è sotto, ovviamente, come anche di G eccetera eccetera, di 200 250, però è obbligatoria l'assicurazione, e questo per tutti i droni che volano, quindi pochi lo sanno, ma anche per i giocattoli. Tutto quello che c'è a bordo, una telecamera e che quindi può riprendere immagine, deve essere assicurata, perché se disgraziatamente sconfini su una proprietà privata a bassissima quota, quindi in cui si vengono le persone eccetera, quello ti può denunciare e quindi lì interviene l'assicurazione. Se invece è alta quota non succede niente. Io l'ho usato un paio di volte, però io ho il limite dei 60 metri di altezza, perché sopra di me passa l'aerovia, passa l'elicottero sempre, giorno e notte, e quindi ho questa limitazione. Poi, da quello che si vede anche su YouTube, ogni tanto ne fermano qualcuno, la prima cosa che ti chiedono è l'assicurazione, la registrazione all'ENAC, Ente Nazionale Assistenza al Volo Civile. Quindi devi avere il coso che io ho messo sul drone per sicurezza, perché se lo perdi, se ne va solo perché non è detto che per forza torni, se lo perdi per un guasto, vedono quella sigla, riconoscono subito il proprietario e te lo restituiscono, perlomeno, in teoria dovrebbe essere così. Sì, in teoria. No, quello che temo io è che possano clonare il QR code, te lo così c'ha lo scanner, te lo stampi e poi fanno danno a nome mio, per esempio, se dovessi mai perdere un drone. Sì, poi la storia della telecamera è strana, perché appunto, perché io ho anche un dronetto, proprio un giocattolo da 15 euro, che non ha, ci sono due versioni, con telecamera e senza telecamera, cioè la telecamera è demenziale, ha una risoluzione demenziale tipo 640x480, è anche brutta, no? Quello è l'obbligo sempre di coso, assicurazione, QR, eccetera. L'altro, in teoria, che è privo della tele, identico, ma privo di qualsiasi fotocamera, sia anteriore che sotto, proprio non ne ha. Non avrebbe l'obbligo dell'assicurazione, del QR non saprei, adesso non mi ricordo. Sì, perché c'era la categoria dei cosiddetti giocattoli, droni giocattolo che trovi in Doshan, sai, quelli proprio. E alcuni sono privi di telecamera, raramente, però è raramente. C'è poi una stronzata, cioè cosa vuol dire? Se un drone da 250 grammi ha la telecamera, devi avere tutto l'ambaradan, se non ha la telecamera non devi avere, cioè, secondo me per schedare chi svolazza riprendendo, chi spia, non lo so, non. E se uno la disinstalla la telecamera, allora? Anche se in realtà non potresti fare modifiche, anche lì, con la storia dei baracchini, non li puoi modificare in alcun modo, mi pare di aver capito. A meno che non sia un kit, sai quelle cose, quelli alta velocità, no? Insomma, un discorso un po' strano, dai. La scusa è sempre quella per schedare, alla fine. Se sanno che è la telecamera, cioè il 99,9% dei droni, sei soggetto a tutte queste menate qua. Poi avevo sentito una volta che parlavate di Platamona, mi pare con Roberto, che a Platamona c'erano i ragazzini facendo volare droni sulla testa di persone e non sanno che alla rotonda, proprio quella per via dell'aeroporto degli ultraleggeri, è zona rossa, c'è proprio quel bel rettangolo rosso, quindi quota zero, a meno che uno con permessi speciali per uso professionistico, con tutte le cautele, non chieda permessi, contropermessi, se no per i comuni mortali sarebbe vietatissimo. Anzi, è strano che e come avete fatto osservare nessuno ha fatto osservazione, anche di, mi pare se erano, chi era, vigili urbani, carabinieri di passaggio, non mi ricordo. Sì, perché c'è anche una questione che le multe, credo che se ti trovano senza tutto quell'ambaranà assicurativo eccetera eccetera, sono veramente stratosferiche, perché non te la mettono chi ti ferma, i carabinieri eccetera, loro hanno il dovere, proprio la procedura è quella di segnalarti all'ENAC, dopodiché l'ente aeronautico fa la contravvenzione, che di norma è di un bel po' di migliaia di euro, anche su un giocattolo, non so se mi spiego, quindi bisogna stare attenti, perché come diceva quello lì, la legge non ammette ignoranza, e su queste cose bisogna stare attenti. Se non c'è la telecamera, tutti questi problemi non ci sono, c'è sempre il problema del rispetto della zona rossa eccetera eccetera, ma non c'è il problema, ecco, che qualcuno ti può anche denunciare per violazione della privacy o perché ti stavi riprendendo quando stavo facendo qualcosa, insomma bisogna stare attenti a 360 gradi. Si è presente che sono tutte leggi europee, non è, l'Italia si è dovuta solo adeguare. Per farti un esempio, stamattina ho preso un avvitatore che era in offerta da Lidl, costava pochissimo, quindi 9 euro, figurati, una stronzata. L'ho aperto e siccome è fatto in Germania, è della, quella che vende la Lidl, la Parkside, dentro mi sono spaventato cosa ho trovato, c'era una roba di un malloppo di fogli in tutte le lingue europee, con l'autorizzazione, il coso europeo, il ticket, hanno speso più in cassa che in stampare da questa tiritera, che poi il manuale di mezza paginetta, cioè una cosa pazzesca, guarda. Sì, infatti non è solo l'Italia, però grazie a Dio ogni anno che passa, almeno per quanto riguarda i droni, una limitazione nuova. Pensa che mi ero dotato inutilmente anche di quelle lucine verdi per l'eventuale volo notturno. La lucina verde lampeggiante mi pare posteriore, va applicata posteriormente. Perché si vuole, poi mai usata perché di notte alla fine non. Parlando dei limiti, tu hai detto zona tua 60 metri, invece a Bancali, dove c'è la campagna, vabbè, di mia zia, dove l'ho provato, lì c'è zona azzurra, mi pare siano 45 metri massimo di altitudine, quindi puoi fare ben poco, sì, tipo in pratichi, detto quello che vuoi. Poi carino che dal display del telecomando e anche sullo smartphone ovviamente vedi l'altitudine, quella non è falsata, quella che è falsata in quel caso di quei modelli è la distanza, guarda cosa hanno fatto i paraculi, si può dire, sì. Allora, l'altitudine sembra coerente, e tu dici come ha verificato? Con un misuratore di distanza laser, l'ho messo sull'asse, ho messo, che ne so, tipo quant'era, 40 metri quella volta, gli ho puntato il laser, come premi proprio ti misura la distanza ed era coerente. Invece per la distanza, per illudere i gonzi, che va tipo a, che ti fa 800 metri o 3 km eccetera, quella è in piedi, la distanza è in piedi, lì c'è scritto metri, M, c'è la M piccolina, in realtà sono piedi ed è facilmente riscontrabile controllando una mappa per vedere dove sei arrivato. Quindi guarda la paraculata che hanno fatto per far sembrare che il drone va tre volte più lontano, invece no, e quella è in realtà è in piedi, e lì ci hanno messo la M piccolina per farlo figurare in metri, quella è proprio una paraculata. Va bene Gianfra, ti devo lasciare per forza di cose, dai, ci sentiamo, ciao, mi ha fatto piacere, ciao. Ok Marco, alle prossime, allora buona serata, ciao ciao. C'è qualcuno sul 10? Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Sì, guarda, sei arrivato mezzo minuto di ritardo perché io stavo chiudendo per la cena e c'era anche Marco che anche lui mi ha chiuso. Ciao Gianfranco, ben sentito anche a te, buonasera. Ciao Marco, se ci sei ancora. Avanti che hai detto cambio. Ciao Gianfranco, chi sei? Gianfranco la scimmia, io sono San Pietro del Golfo dell'Asinara. Ciao Golfo dell'Asinara, buonasera. Gianni, buonasera anche a te, però me ne stavo andando, sono tornato indietro per rispondere, perché devo andare a cenare. Buona serata ad entrambi, riprendi Gianni. Ciao Gianfra, buona carica, io sto accendendo adesso perché prima stavo cantando, ti dico la verità. Ho tante passioni, quindi bisogna sfruttarle tutte. Ciao, buona cena Gianfra, alle prossime, avanti San Pei. Ciao, buon pomeriggio a tutti, un saluto a Gianfranco che sta andando. Buon proseguimento. Ok, mi ho acceso la radio adesso, come sta uscendo? Bene sta uscendo. Sì, se no te l'avrei detto se ci più male, ma non mi ha riconosciuto chi sono. Sì, mi sembra che si dice Gianni, sì. Cappa. Ma prima mi ha pigliato un bacio a Franco. No, anche mi chiamo Burueu Gianni, mia, scusa, ma chi si dà giudizio? Tu c'hai i cucuriti, c'hai già? No, io c'ho i loro arcobaleno. Sì, vabbè, dai, nel senso che, perché l'altra volta mi sembrava che si sentiva cinguettava, per quello ti ho detto che avevi i cucuriti. No, tutta un'altra tipologia di pappagalli. Quelli che ho io sono pappagalli medi che parlano, eccetera. Come poi c'è il cenerino, eccetera, eccetera. E belli sono, quello cenerino grigio con la coda rossa, lì si è proprio un pappagallo. Seguo una ragazza su Facebook che si chiama Aaron 4, quel pappagallo. Magari lo segui anche tu, non lo so, magari dici. Troppo forte, da pensare così che dici. Sì, lo seguo anche io. Poi c'è anche quell'altro, quello verde, che è di quella donna, di quella signora San, di Giovanna, non so se l'hai mai visto, quello lì dice pronto, poi ce n'è un altro che dice avvocato, innocente sono. Chi sei Aaron? Che da voi casi Ciamendi Lugani, Volivaci, casi Cantelli Lirico, Togue, chi sei Togue? Ma ci vuole molta pazienza perché si dimenticano, se tu non li stai appresso, si dimenticano le parole. Il mio dice aiuto, vieni, perché io quando li libero, quando li pulisco le gambe, li libero tutti quanti, chiudo bene le finestre perché già una volta mi si è fuggito. Vabbè, l'ho ritrovato tramite Facebook, sono riuscito a rintracciarlo, tanto non lo possono ottenere se non c'è una documentazione, li arrestano, ce li trova. Niente, l'ho trovato dopo 3 giorni, infatti lo chiamo il fuggiasco. È un malandrino, ha fatto un malandrino. Poi stavo seguendo, tipo, che dice che a Cagliari nei giardini sono invasi di questi pappagallini gialli con il collarino nero, che sono quelli visti di razza, ma stessi, che dice che non so da dove stavano arrivando, hanno migrato. E dice che a uno sciugano ne ha rimagnato tutto. Parrocchetti dal collare si chiama. Quelli li piano anche a Roma. A Roma al Giannicolo è tutto pieno. Sì. Magari ti sono pure in Sassari, in qualche giardino, in qualche luogo. Magari non ce ne sono tanti. Però secondo me già ci sono. Sono belli quelli lì. Però non lo so, mi pare che costino anche come tipologia di pappagallino. Allora, quello che costa è l'ara a Arauna, che è quello tutto colorato, grande grande. Poi c'è Cenerino, che costa su 1.200 da quando è picco. Poi ci sono i miei che costano 350 euro l'uno, io ne ho tre. Poi che parlano, ci sono i parrocchetti al collare, che se ne insegni comunque i pappagalli parlano tutti, comprese le coccolitte. Se tu gli insegni a parlare, ne aveva uno che si chiamava Peppino, questo amico mio, e l'ha trovato in strada questo pappagallo, ed era una coccolitta e parlava, diceva ciao, diceva tutto quanto, perché lui gli apriva la gamba e gli andava subito sulla spalla. Sono belli quando sono così, ma magari è stato addestrato da piccolino, da quando è nato. Perché io ce li ho due cucuriti, ce li ho da poco, una coppietta, la femmina è celeste e il maschio è verde. Bellini! E mi ha dato questo bugiamenderi, venderi, ma come la scamera ne è bassa lì. Vabbè che già non ce li ho da tanto, ce li avrò un mese. Invece canarini ce li ho un paio d'anni. Però mi sono tracchendo i canarini, anche se sono troppo gasinisti. E invece a me è il contrario, a me piacciono più i canarini perché cantano bene. Stamattina quando mi alzavo mi sembrava di essere alla foresta, cazzo, quanti... io vabbè c'avevo l'allevamento, io c'ho la veranda grande, c'avevo l'allevamento in veranda. Ne avevo una ventina, tutti selezionati, fattore rosso, quelli gialli, quelli screziati, ne avevo avuto di tanti tipi. Mi facevano anche molti figli, ve li vendevo, li regalavo qualcuno. Insomma, solo sai cos'è, che mi hanno ingaggato tutto il muro, ho dovuto tutto ripitturare. Adesso invece i pappagalli li metto sopra la cucina che c'ho fuori dalla veranda, c'è una cucina che uso d'estate quando ho frigo, e l'ho tutta qua da piastrellata, no? Nel muro, e li metto lì, se sporca la mattonella le lavo e basta, fatto io. E me li ho eliminati i canarini, però a mio... mi dispiace perché il canto dei canarini non si può paragonare a chi sono dei pappagalli, che sono... non è un canto, quello dei pappagalli è proprio un zecchino. Ehi, è vero, è vero. No, quelli che c'ho io, i canarini ne ho. Allora, c'ho visto spagnolo... portoghese, chissà che canta, lui chiama il timbraloro, arlecchino, vanno a mettere un attimo di chiama. Poi c'è il figlio che canta più di babbo, che c'ha già un annetto quello lì. Mentre la femmina ce l'ho giù in cucina da mamma, con l'altro esempio il figlio di chissà spagnolo che cantano, che si chiama Gregor, visto, si chiama Du Gregor. Non lo so se mi scrivo. Cavolo, vado casino niente, Gregor, diciamo, la femmina, ma la femmina, ma la sotto la femminuccia, troppo non era tutti nuda. Vabbè che adesso non è periodo. Però no, perché è pettata, la femmina è pettata, è tipo bianca con le maccioline nere, allora. E invece Gregor è tipo tutto tigrato, con il petto un pochino rosso e la testa un pochino sfumata, che è figlio di Gisù, spagnolo, con la femminuccia invece era gialla, capito? E niente. E sotto che sono curioso, lo mangiano quando al media si buoni a cantare. Ed è bello, il canto è bello, c'è ragione. È armonico, dai, di muo' bello. Ma quando si buoni nel tumpari, e insomma, che avesse la lecce di vibrare. È una questione di abitudine, dove li hai presi? Io li avevo presi, ce l'avevo anche io quelli, li avevo presi da un allevatore di Porto Torres che abita lì in lungomare. Allora, a dirti la verità, me li aveva portati mio padre, che sicuramente gli era dato quelli che hai detto tu. aveva portato una coppietta di questi spagnoli o come si chiamano i portoghesi, questi canarini, e poi infatti mi era tipo la femminuccia che avevo comprato a Sassari, quella bianca con le macchiette rosse, non lo so, le giunta della serie epilessia e si è parata lì. E allora me ne ha portato, gli ho chiesto se ne aveva qualcuno, quel signore, e mi ha portato uno che pare di un cabuginese, bai. Ma è più, è fritta, dissami, ma non c'è niente a morire lì. E le femminucce quella lì. Adesso a primavera rimango a vedere se riescono a farli. Perché questa estate l'hanno provato a farli due o tre volte, però si ubriavano, cominciavano a ubriarsi da buio, ma c'erano andati a venire scuri, a tutto buio, gli erano i paviani dei zidini o non paviani dei zidini, che mi si incassava, gli erano andati via e scuri, a tutto buio. Allora, io voglio allevarti e quindi ti posso dare dei consigli. Allora, se il maschio non è bravo, se è bravo in bocca sia la femmina, perché è appurato, l'ho visto con i miei occhi, in bocca la femmina per non farla uscire dal nido e far riscaldare le uova, la in bocca il maschio. E addirittura l'aiuta, io avevo maschi che aiutavano la femmina a dare da mangiare ai piccoli. Però se tu vedi che il maschio è così, ne rugavi, quando vai a loro li rugavi lo maschio. No, per quello faceva come hai detto tu, anzi era un bel bravo, era di una furia da mangiare i bittini, cioè ai pulli, ai piccolini, e allora si afferrava con Guido, allora Guido doveva essere di canto, era bravo, era a fare i scleti, la bisseghia, la guia, la via, furia, di tutto canto pure. Oppure era lei che li buttava a pulli, perché a vederli non li ho mai visti. Perché un giorno ha fatto tre pulcini belli lì, li stavo seguendo, lui andava, li dava da mangiare alla mamma, però momenti magari andati a da mangiare i minoretti, ci avevano 12 giorni. Non furia, non so, le persone da bulli, lo afferrati oppure magari non erano idonei, quindi magari sono molto per quello. Però avevano già le piumette quasi, sta qua, e poi li ho provato a lasciare, a rifarli, gli altri, e hanno fatto dormire la macchia signore. Però è lì, forse perché è diversa da lui, perché è una carrasca, perché lui è di più, sembra loro che canta, fa un bel canto a palmare. E invece lei è un po' più, non mi gioco. Forse se lei è grossa, lei è una grossa, capisci? E forse non vanno d'accordo a livello di, come si dice, a livello di grossi, di uguali non vanno d'accordo. E se tu li incroci, tu parli della matta serrata. Comunque se li puoi far nascere, anche adesso li puoi far nascere, te ne scendo io come fare. E ce li ho dentro casa, mi, se l'altro giorno glieli ho tutti lì, ma che hanno invato un sagrato nido, nel senso che gli ho messo la iuccia, l'ugoli, si hanno fatto il nido, hanno fatto tre uova, tutti e due, però erano bianche le uova, a si deve sì che erano infurrastati, erano a me, e ne hanno tirato tutto quanto, i bambini dallo fondo, e infatti va avvelenato il nido a chi? Gli ho messo, ho pulito le gabbie fatte bene, ho una gabbia da 60, capito? Cioè due gabbie da 60, e ce ne sono tre coppiette in una gabbia e tre coppiette nell'altra gabbia, e quelli di una gabbia stanno belli così, le femminucce e le dinali, tutti i bambini da bere. E lo fanno perché la usano anche per fare il nido, la carta. Io a volte non li mettevo tutta, lo facevano con la carta, li mettevo pezzi di carta, pezzi di lana e lo facevano con quello. Però i pappagalli non ne hanno bisogno, li metti la segatura e fanno l'uovo nella segatura. Ne hanno fatto anche uno oggi, se l'hanno mangiato, se li mangiano, i miei si mangiano le uova. Eppure gli ho messo il calcio, gli ho messo lo sotto la seppia, tutto tanto, niente da fare. Comunque se tu li puoi far nascere adesso, sai cosa fai? Devi avere la temperatura a 23 gradi in casa e poi devi lasciare la luce accesa sino alle 9 di sera e non lo continuano a covare sino a quando, così quando nascono i piccoli li lasci la luce accesa e li continuano ad andare a mangiare sino a farli grandi, così. Infatti ce li ho qua nella camera e la soffetta a pelle sta andando e tutto, quindi la temperatura già c'è, se tutto si rivolge vanno a qui, però voglio adesso non gliene faccio fare, gli lascio un po' riposare, nel senso che da lui di più da gennaio in cui, magari febbraio, li seleziono la coppietta più bellina là e rimango a fare le uova a vedere. Mentre nelle cocorizze ho messo 3 grani di bellet in un bicchiere, l'ho bagnato ed è uscita dalla segatura, gli ho messo quei cosicini lì, quella appena di segatura, un cucchiaio di segatura sarà stato, e più di un cucchiaio nei cibi, gli ho messo 3 pellet in più. E gliel'ho messo, però ancora non ci sono entrati nella casetta. Sono sempre mi ha dato a usare i sigeni, i cigliotteni, i amoreggeni, gli ho messo anche tutta una specie di giochini, non giochini. E questa specie di altalline colorate, guarda un pannellino, e niente, e sono curioso. E gli animali sono meglio delle persone, tanto è vero. Sì, grazie grillo, grazie faccio una greppa da lì, io, grazie che da quando mi sono stesso rugo su alla china, che sono sempre in casa, e già vengo a trovarti, già vengo a trovarti, ma che cazzo, questi canti vuole di gabbio, e se non si venite a casa, se venite non vi venite, ma ne vedo da chi io fumo, quindi arrivate, ma com'è che io mi devo rilassare, a questo punto canto, pulinese, questi canti ci abitati. E si può fare una rivista buona, usando giù, ma già ne aggiungava di una cartesimini da questi dei canarini, a primavera me la bonga per il cibo. Ha ragione Benitturgo, gli amici si vedono al momento del bisogno, si ha preso tutte le fotografie di Gobodo, mi tirò la Romagna. Che è pure di gabbo, da voi in aggiuno, chi se le scene di Mauri, messe da sotto i guidi. Non ti preoccupare, domani passo la Bolivia che gara, la Bolivia delle foreggia, magari basta pegare se c'era medo, e la Bolivia ti dico due ghetti, tre ghetti, un mese che non si va a sentire niente, la Bolivia mi do la chiamata che dice di che cosa, compreso, e io mi dico, guarda, no, mi dispiace, ma noi non mi posso muovere, arrangiati, cazzo, sai che vuole buono, cazzo. Se cazzo una busca è buono, va a fare via dei amici, se ne cazzo di un bel di cose, da qui a chi ti manca la camera nei bassi. Gli amici si vedono proprio quando uno non sta bene, ti stanno vicino, se sono veri amici, se no vuol dire che sono persone che ti trattano giù, ma interesse e basta. Infatti, cioè tu immagina di io. Avano per governi a chi ultimamente con tutti questi dolori, vista la vita mi si è abbassata. Quando giocavo con la PlayStation 5, quel gioco di macchine, è bello, è un bel reale. Qui sono sempre amici, sempre il primo con il terrorismo, negli sabbista di la pista della Sardegna, la pista di in Italia, avano mi ha messo in vista, forse a Monza. E niente, c'era un ragazzo di una vicinaresu qui, che però mi faceva camionista in continente, infatti abitava in continente. Mi ha detto, io ti conosco, quando avevi la macchina io ero un tuo fanso, cazzo che passavi a segno, scoppiettando la megana, il gatto, prendi il gattino, ma disse noi, cazzo, come ci sentivamo, tutti ci mettevamo vicino alla scala, lì eravamo nella passeggiata a vederti salendo. Beh, ti dico una cosa, gli dici un bittino, dai che farà di da lui, che ora fa due pullman, è venuto a trovarmi, mi ha regalato un regalino, mi ha regalato, hai capito? E ogni qualvolta che lui è giovane, no, mi fa se viene a ciaffarmi, invece la vedi me, ci si riesce a me la bicicletta, tutti i ganti, guarda, è meglio che mi sto venuto, tutti i nonni sono fatti. E a volte gli estranei sono migliori degli amici. E dipende sempre dalla sensibilità che la persona, capito? Ma lo sai cos'è, che magari con la scusa, su un travagliente, ci andati da travagliare, una cosa e l'altra, magari mi mangi un morto, e da pure magari mi si go. Sì, ma cazzo stai andando da casa mia, stai mi. Cioè, io sono venuto a scritta la sombra e adesso stai in una scritta ben giorno. Cioè, noi devo andare, tutta fede può venirmi, si può venire a... E invece sono tutti un po' menestrechisti, proprio non gliene sbatte niente, tanto non è nessun problema, compresa, si va se ne ricatti su, magari ogni andato ti telefoneggiano con l'accusa, beh come tu stai, e già, già fatto la cosina, e invece non ti basta mai. Ma fregatene, lasciala perdere certa gente, per carità. Almeno a non dirne, non dire nulla, ma dici che ci passi, però ci passi, ti delude la cosa, ma tu non cammini nulla. A livello di gozzo, ti butti di rinone a chi, ho i piedi bloccati, cioè se io mi metto in piedi a spostarmi da una sedia all'altra a fare tipo due passi, però mi devo sempre appoggiare con le mani, perché la schiena non regge, mi danni, come mi hanno rotto quelle vertebre, hanno fatto un casino. E quindi adesso con questi due giorni di freddo, mi lo sai come si va a fare? Fracassato, ma... E andare in continente non è provato. Perché io ho un amico che è andato in continente, gli hanno messo la gabbia e si è ripreso. Prima non ce la faceva a calzarsi, poverino. E adesso si è ripreso, dai. Ma io, a me mi hanno fatto la gabbia nella schiena, cioè da L1 a L5 mi hanno fatto una sorta di scaletta e ha finito un ferretto laterale a destra, un ferretto laterale a sinistra e le vicine in ogni vertebra. Però me l'hanno fatto male a chi due volte me l'hanno rifatto. Una volta e dopo 6 mesi le sono uscite le vici da sotto. E quindi sto caduto in baghetto, perché praticamente non me ne dobbiamo bunire a me, perché io avevo una vertebra leggermente schiacciata e dice la dobbiamo aggiustare, e invece mi sono uscitato tutto pieno di ferri, chissà cosa che stanno combinando, perché mi hanno fatto spaventare, io ricovero, perché con la scusa che io sono tipo talassemico, no? Anche se non ho altre patologie, io faccio solo globuli rossi in sangue. E quindi come stanno i cammelli, cazzo, mi dico, i nomi disordinati. E quindi hanno fatto di tutto per farmi queste due operazioni, vai cacciarsi i denari, ma loro non funzionano così, a tirare bugiare che non è bombinato io, che mi stanno sputando una berra, e quando dico io che mi ha toccato non mi devo vedere toccare nessuno, mi preso, visto mi ha sbattuti. Quando ho chiamato tipo a Bologna, per esempio, ho conosciuto un dottore bravo a vero, c'era il periodo del COVID. E quindi poi è successo un casino e alla fine non me ne fatto. Se no con la sicurezza di Riccardo Burrena va. Ritornaci a Bologna che diverse persone sono andati, quegli ospedali di Bologna sono bravissimi. Addirittura il padre di un amico mio ci ha fatto il trapianto del fegato a Bologna. E guarda. Da com'è, cioè è rinato. Infatti, ma manca paragone a Sassari, no, a Sassari non vale una nuda, a Sassari sono tutti studiati da cippo, tutti comparati da laurea e basta, sì, non ce n'è, perché se uno, tipo come ero io, che io lo facevo meccanica, nel senso che, anche se, però, sapevo fare un sapevo fare. Se io ti porto la pistata della macchina, te, fa dire. La pistata della macchina. Devi durare minimo altre, fa dire 40.000 chilometri che fa. O altre 100.000. Non è che ti faccio la connessione della pistata e dopo due settimane stai pure di Eva la fianco e body, ridella. E che figure ci fai, scusa? Che figure ci fai a tirare cose, se la fai la devi far bene. Se ti sono del figurone nella distanza, voi girate tutti a risucchini. Con i fatti bene tutti a risucchini. Non è che mi scrivi due risucchini e due da manere e due attellano. E cosa cazzo si vede? Non ciao si vede. Capito? E quindi a Sassari solo, solo mi a vantarsi e a far di là. Fare un corso universitario, sì, con i soldi regionali loro vivono così, ed è un casino, a chi non andare verso il gol, a chi cazzo dici prima di zia lì, vanno per la vista, auspice, tutti quanti, tutti non malati, e noi siamo belgi, a chi noi siamo solo un numero della gente universitaria, a chiede, ma come la camera nel basso? E soprattutto quelle infermiere che ci sono adesso, tutte quante che si stanno scrivendo a fare con l'accusa di non aver travaglio, non manco vanno in un stipendio, come si dice, un stipendio fisso e sfaffuto, da voi non ne ha più nulla, noi si sta bene e si sta male. Ma infatti, no, se sei, io ti dico una cosa, io non posso lamentarmi perché a me me l'hanno fatto bene il lavoro che mi hanno fatto, la verità, non ho sentito più dolori né nulla. Da quando mi hanno messo la protesi dell'anca a Sassari, all'ospedale civile, non sento nulla. L'ho fatta al policlinico, che li vantano tanto, e alla parte dove me l'hanno fatta al policlinico, di tanto c'ho dei dolorini, non dico dolori forti, però qualche dolorino ce l'ho. Ma invece quello che mi hanno fatto a Sassari è perfetto, ma quando lo stavano facendo a me il lavoro, che l'ho ricoverato, è entrata una ragazza a voci. Mi avete fatto la gamba 2 centimetri più corta dell'altra, per quello che sono zoppa. Mi hanno misurato le gambe e mi avete fatto la gamba più corta dell'altra. Io a fu capitano. Anche a me me l'hanno fatto a tipo rugoso all'anca. Praticamente ero a Porto Torres e mi hanno tamponato nella curva del Galeone, lì dove c'è il delfino. E mi hanno rotto, praticamente mi sono rotto la testa del femore dell'anca destra. E me l'hanno fatta a Sassari, all'Annunziata, lì, a liquidare il video, cos'è. E me l'aveva fatta, allora c'era Morton, lo dottor Morton, ma ti parlo nel 2007, lì. Cioè tu immaginate di che un picco, innanzi agli sacchi di Manacon, anche se adesso è un po' dolorante, nel senso che non è che la muovo tanto, quindi sì, i muscoli sono un po'. Però l'altra, da quando mi hanno sistemato la schiena, l'altra me ne gancarabbia, l'altra burigia era mia originale, ma no, no, non frigi, complico, mi rompe le scatole a chi non ha le vesti cose, a chi burigia, allora sai cosa hanno detto loro? Ma tu, ti è successo questo perché hai la sua patologia, no, sei vauraggi, ti è successo quello perché non siete stati buoni, quindi è capace in grado di fare quello che dovevamo fare. Dici, perché io ho un'anca da giudizio, fatta dal 2007, oggi più di non gioco qualche bastone di giochi ancora. È malosa la giudizio. E quindi non mi sono affrettato a stare, che se non io da lui in blocco e riporto a qui. Vabbè. E quella che capiteggia sotto a rimanere dentro. Perché tu quello che ti fa non lo sai, tu sei sotto il ferro e non sai nulla. Io guarda, io sono diabetico, ho avuto praticamente una volta portato il cane, mi ha portato in un'aiuola che c'era un fondo di bottiglia con la punta in mezzo all'erba, non l'ho vista e ci ho messo il piede sopra e mi sono bucato il piede. Ho fermato il cane e ho detto fermati lì, non ti muovere, ho alzato la gamba e praticamente mi ha trapassato una volta e mi ha bucato il bit e sono riuscito a togliermelo da dentro. Poi sono andato dalla mia dottoressa, mi ha chiamato subito il reparto dove fanno a Rezzetto i vaccini, perché ha detto che mi doveva fare l'antitetanica. Mi ha fatto fare l'antitetanica e mi ha fatto subito andare all'ospedale. E mi hanno operato, mi hanno praticamente aperto. Mi hanno tolto le schegge che c'avevo all'interno, ma questo taglio non si chiudeva mai. Mi hanno lasciato un pezzo per drenare, non si chiudeva mai, questo taglio non si chiudeva mai. Alla fine, ogni volta che andavo mi scalzavano tutto attorno, mi hanno fatto una voragine, proprio tipo, hai presente il vulcano in eruzione, sempre in uscita, sempre scendo in buccia e come. Sono stato 5 anni così, poi una donna, Dio la benedica, la compagna di un amico mio, mi ha detto, senti, metti in mano mia, vedrai che te lo faccio passare. Ho detto, guarda, le ho provate tutte. Mi ha dato questo, questo olio colorale, è praticamente oro colloidale, e me l'ha fatto passare in 2 mesi. Vedi che sa le cose, quanti funzionano le vecchie. Io per esempio, come hai detto tu, io vado in piedi e mi è caduta la stampella su e mi è uscito un graffio tra il dito grande e il secondo dito del piede, della gamba di sinistra. E so, Giuseppe, come stai tu duro, imburigato, ogni tanto drena, e vieni chi da dottoressa mi buona chi da bomata, da burguando a Sassari, chi domani a Rattigheggi, guarda che tu non ti vengo più, a Sassari che io non ci vengo più, perché sono partito che il piede non aveva quasi niente, e avevo giù di pure un bonto di rubini, che tu canto cugliato, E niente, ho notato che quando non metto niente, che lo lascio in asciutto, che si asciuga, rimane verde. Tira un po' perché la pelle è... Però non è solo questo, due anni, si tornano a Sassari ma a farlo. Allora, ascolta a me. Hai mai provato Alo Silver Spray? No, non lo so. Ava me lo scrivo, gli ha fatto una bene, no? Mi hai detto, dettamelo che lo scrivo. Alo Silver Spray. E praticamente io mettevo quello lì insieme al oro colloidale, che lo vendono in farmacia anche quello. Quello che mettevo io lo faceva questa amica mia, però lo vendono anche in farmacia. E su ruivo e su colloidale, come si chiama? No, quello lì è il betadine, quello che stai dicendo tu. Eia, vero, eia. E niente, sono Giuseppe, mi buone ne chiusi da sti calzini, gel, come acqua gel, di duraccio, blu, non funziona. No, io le ho provate tutte, le creme proprio da scartare, tutte le pomate non hanno fatto nulla, ne ho provato mille pomate. E ho provato un olio che faceva questo contadino con delle erbe particolari, metteva olio di oliva, più metteva queste creme, l'ho ripagato un mese di là, appena aveva proprio boccette piccole, 80 euro a capo, e non mi hanno fatto nulla, ha detto che ha guarito un po' di gente, comunque la cosa a me non mi hanno fatto nulla. L'unica cosa che mi ha fatto bene è l'aloe silver spray e l'aloe colorale. Insieme, mischiati, facevano una specie di pasta, no? Lo tenevo, perché l'aloe silver spray, quando tu lo spruzzi in grigio, poi diventa bianco. E poi tipo penicillina rimane, poi tu li metti sopra l'aloe colorale e fai tipo un'impastatura. E si forma la crosta e non ti ne esci più. Vedi, no, allora io tipo quell'olio che hai detto tu, lo faceva mio nonno, si chiama il studio di spirico, ma non lo so così di chi, è fatto con l'olio d'oliva, ci sono tipo questi pulmini gialli che si mettono al sole, si seccano e poi fanno tipo un olio un po' rosso. Ed è buono come prodotto, per le bruciature, per i tagli, per le ferite. Ma è nata in lì, non le va giù nulla, perché Il problema è che quando drena un po' il piede se ne butta a culo le medicine, capito? Poi ho provato anche quella pianta grassa, l'aloe, la foglia dell'aloe, ma mi ha fatto un tabacco di No, perché non reagisce. Cioè, nello senso, quando io sono andato a Sassari da vista la dottoressa Carta, che ha detto che era lei quella delle cose, come si dice, delle ferite impossibili, non so, guè. Dunque non accavando bene, inutile che io quando stato nel rattigeni, bene, ma tu geni nel bene, non funziona, quindi me lo medico al naturale così e lo lascio asciugare. E quando è asciutto rimane più tranquillo a chi si infinigheggia a burino. Invece di da maniera come è tutto pomato e pomattine, mi lo faccio in scippola di gambe, a chi pare mi droga nel sangue su pomato. A me addirittura mi hanno fatto delle scarpe ortopediche aperte, che camminarci sembrava di andare al circo coi trampoli. Mi vergognavo anche uscire, questa volta l'ho divesa dall'asta, mi dava anche fastidio. Le ho provate tutte, io guarda, 5 anni le ho provate tutte. Che Dio benedica la persona che mi ha fatto guarire, perché io pensavo che me ne tagliava le lumbine. Non hai visto il problema è visto, però il mio piede per esempio è sempre in rosa e tranquillo, però mi devo rimanere giusti, mi devo rimanere per il fatto perché non funzionano le anche, compresa, non funzionano i piedi, cioè le anche già funzionano, chi si muove anche funziona. Sono i piedi che non muovono, non fanno niente, quel movimento flesso di cui quando accelereggi e freni una macchina di mo, perché i nervi sicuramente hanno qualche anomalia nella schiena, però lo faccio di quando mi vengo raffiato mi subivi, non è gavù, cioè non riuscivo nel video, sì. Anche se prima ero dolorante, con le stampelle riuscivo a camminare, a scendere tipo in strada, a pujarmi. A mano no, i bili mi duri e non riesce a più bene. Se picco con l'arca che macchina accolte, mi prendo, mi vado a avvelenare, mi gusto, mi mappa nei riflere, madre. Ma non hai sensibilità ai piedi? Non ho capito. Ho detto, ne hai di sensibilità ai piedi? Sì, io ce l'ho tutte le sensibilità senza i piedi, solo che non pilotteggiano, non pilotteggiano, come se dicono l'interruttore che non andano. Però se io mi grasso, mi viene la magnazzona, si muoia, cosa ne so, ma tutto, sì, avrei sempre le sensibilità. Ma le dita si muovono, sono tettari, rimangono in tettari come se non fossero... Le dita ai piedi ti si muovono. Allora, se io vado a muovere le dita si muovono poco perché non pigliano pilota, non pigliano l'input. Però io vado a muoverle e tipo a farle tipo ondeggiare piano piano. E si muovono poco perché li sento tutti anche i nervi e si vedono. Però no, pare che siano bloccati, di vedere che cosa che non manda corrente, che no, capisco. In più poi quando c'è freddo che si intorpidiscono, cazzo è un casino, sì. A muovisi le sensibilità ci sono, però non funziona, ne rivedi dei vedi. E tipo mi ambusto non riesco a farlo muovere come si deve muovere. Si muove proprio al minimo, tutto al minimo so qui. Vabbè. Anche il diabete fa queste cose. Il diabete ti porta proprio a bloccare le dita dei piedi, ti vengono dolori fortissimi alle dita dei piedi, se non dormi manco la notte. E insomma, ne esce qualcosa in dubbio. Ma infatti quando io molte volte quando andavo a Sassari mi diceva ma sei diabetico? Io dicevo no. Ma se allora come mai questa ferita non guarisce? Perché dice la schiena non funziona e quindi i ricettori non mandano i segnali, non reagisce. Infatti l'altro piede l'altro piede è tranquillo, però le dita si girano tipo all'ingiù perché tirano i nervi dalla schiena, quando c'è freddo. Beh, oh, come? Ui ui, tipo a farti ieri notte, hanno fatto il supremo maro, e a farti ieri notte. Me l'ha cotto in terra riguardo, alle 4 me ne ha buttato in terra e meno male che in cameretta c'ho tipo la macchinetta del caffè, la massa piccolina, mi ho fatto un mini cappuccino, da voi mi ha dato un pezzale di televisione, di suba video rumetto, e da voi mi ha fatto un mese fumogeno, mi gravio, e mi ha calmato un po' e mi sono riaddormentato, però tipo quando si è a 2 ore così, 1 a 3 ore, 2 ore e mezzo viene con in terra che non lo so, deve essere che non ce la fa, come si dice, la linfa che scorre nelle gambe si blocca e magari con un freddo si intorpidiscono e si ghiaccia, quindi no, se ne butta a far forza in terra. Io quando sono sdraiato con questo quadrone così me ne devo bisare nella galleria, quella che c'ho a rotelle tipo giù, e niente, e mi devo avvicinare alla scrivania, c'è la previsione e si sta di rimanere un po' più, come si dice, che in abbissamento, a tutti i nonni sta sempre a di loro. Ed è una cosa bruttissima perché non si butti di vicini sempre a dolore, io a voi venire la dottoressa, tieni questa pastiglia, tieni quella, tieni l'altra, io la giubilia più lunga di battiti, perché tanto non funziona. Quindi è inutile che stiamo lì a sventiare, qui o mi dico una dura aiuta oppure se no mi arrangio io. Ma viene la dottoressa qui, il dolore viene lì, viene là, non si dice mai più. Allora torna a venire la dottoressa di Giacosta e così su di noi. O me la fai venire del dolore per darmi qualche medicina, oppure perché a me mi possono dare anche la cannabis medica, si chiama Bredocan, la danno in farmacia. Solo che, non lo so, è una specie di burocrazia, è nata a cagare di più gafolo della pianta, della medicina, e quindi fare negati tutti i tabù fare negati di favore di vita bianca. La buia ci la sera e si spiega anche a polvere di stelle a levare in giro. Ma non vedi se si può leggere. Lui, un attimo lo so, le dita come ce le tu si chiamano dita ad artiglio, e praticamente succede quando i nervi si bloccano, e le chiamano dita ad artiglio. Io c'ero una medicina che fa bene, che agisce praticamente non sulla guaina del nervo, però agisce direttamente sul nervo. Presa 2 settimane e ti fa passare tutti i dolori possibili e immaginabili, è micidiale della pastiglia. Ma allora, tipo a livello di quelle pastiglie per i nervi ce l'ho qualcuna, una si chiama Sirdulad, il Bari, da 4 mg, ed è un mio rilassante che agisce sulla schiena, sul sistema nervoso, sui nervi, eccetera. Però non può sfruttare le mie viti, gli amici battiti, si capita, che tanto da voi si abitua all'organismo e non si va in nulla. E quindi la prendo al momento del bisogno, proprio quando mi gioco, se no ogni tanto mi chiudo anche la fattipirina, che sta effervescente. Però a livello di altre pastiglie, di più brutta, di altri cose, e non si ricribito che mi vado in alzare il vaporaggio, da buon dolore che c'è sempre. E infatti la tua piede, come è se tu c'ha le dita, tipo ad artiglio, perché i nervi sono bloccati da artiglio, in tutti e 2 piedi. Solo che quello là sfortunatamente si è ferito e sono tutto il piano meno di burino in carreggiata, che cioè buono lo so, faccio fatti di trigosi e funziona tutto, funziona la circolazione, va bene, gli va bene, però il problema è che quando uno non si muove tanto si fregga neanche, non frega, come tutte le cose. Si atrofizzano i muscoli se non ti muovi, devi fare ginnastica anche a letto. E Luca, avanti, dai, poi ti spiego una cosa. Luca, ci sei? Boh, vabbè. niente. Allora tu dovresti fare una ginnastica, tipo ti metti praticamente a pancia in alto, e questo qui è per le gambe, è per i muscoli, per i muscoli. Ti metti con le gambe piegate,